Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che si sposta verso Reggio, anzi per meglio dire a Reggio Children, perché nel grande centro internazionale Loris Malaguzzi, dedicato alla cultura dei ragazzi, si è inaugurata il 17 aprile questa mostra. Il titolo è Un binomio fantastico, Gianni Rodari e la città di Reggio Emilia. Questo a cura dell'istituzione Scuole Nidi di Infanzia Reggio Children, Fondazione Reggio Children, più il centro stesso Loris Malaguzzi. Presenti tra gli altri Pino Boero, grande esperto dei Rodari, e Vanessa Roghi, un'autrice che ha dedicato molti dei suoi studi proprio a Gianni Rodari. L'ultimo lavoro edito da Sellerio è questo libro d'oro e d'argento intorno alla grammatica della fantasia di Gianni Rodari, che sappiamo essere il suo capolavoro letterario pedagogico del grande narratore di Omegna. Quindi, dopo lo stacchetto musicale, Morena Moretti interpellato la stessa Vanessa Roghi. Vanessa Roghi, tu hai dedicato il tuo ultimo lavoro a Gianni Rodari, in particolare alla grammatica della fantasia, ma è un libro dove si racconta la storia e l'importanza di un altro libro, quindi gli hai dato ulteriore valore, ma era necessario? Boh, chi lo sa, nel senso che non so mai se poi un libro, cioè che cosa, un libro è necessario, boh, insomma non lo so. E certo, sicuramente per me era necessario, nel senso che quando ho fatto la biografia di Gianni Rodari, Lezione di Fantastica nel 2020, avevo accumulato moltissimo materiale sulla grammatica della fantasia, moltissimo materiale che però non avevo potuto mettere nel libro perché ci sarebbe stata una sproporzione, diciamo, fra quel capitolo e il resto degli altri capitoli. Quindi l'ho tenuto da parte e poi appunto negli anni, insomma in questi anni che sono trascorsi da Lezione di Fantastica all'uscita di Un libro d'oro e d'argento, mi sono resa conto che però tantissimi temi che stavano in un libro, insomma nella grammatica della fantasia, tornavano, come dire, anche nella cronaca paradossalmente, per cui la questione della relazione adulti-ragazzi, la questione delle parole buone, delle parole cattive, la questione della relazione con i mezzi di comunicazione. Quindi, insomma, penso che comunque avere uno sguardo che oggi ti dice che cosa nella grammatica della fantasia è ancora molto attuale, se non è necessario, comunque può essere utile. Un libro che comunque anche Gianni Rodari in un certo senso sottovalutò, cioè forse lo giudicava più una sorta quasi di manuale, che ne dici? No, anzi lui proprio ci teneva tantissimo a dire che non era un manuale, nel senso che lui in più di un'occasione appunto diceva: questo non è un manuale, non è un Bignami, non è l'Artusi di come si scrivono le storie, ma è uno strumento popolare e operativo. O popolare e operativo sono due aggettivi che non significano appunto una sottovalutazione, ma un intento politico. Cioè tutte le cose che scrivo io vogliono essere popolari e operative, non per questo mi sottovaluto, nel senso che deve essere un libro di intervento, un libro che uno legge e che gli serve in qualche modo per guardare il mondo che ha intorno e provare a trasformarlo se non va bene. Cioè non è appunto, come dice Tullio De Mauro quando lo legge la prima volta, una riflessione per professori che stanno chiusi nella loro torre d'avorio, sicuramente, ma è un saggio profondamente politico. Infatti tu tra l'altro nel tuo libro dici proprio su questa grammatica della fantasia che Rodari è un immenso scrittore e un intellettuale del suo tempo e che questo, un po', questo libro un po' lo dimostra. Sì, nel senso che poi lui nella grammatica della fantasia fa precipitare comunque intanto 40 anni di lavoro, perché lui inizia a prendere appunti per scriverlo nel 38, quindi quando ha 18 anni, e per tutta la vita continuerà a prendere appunti per scrivere questo trattato sulla fantastica, che poi appunto all'inizio deve essere un trattato su come si inventano le storie e poi alla fine diventa un trattato su come si cambia il mondo a partire appunto dalla relazione con l'infanzia. Quindi sì, è proprio una summa, diciamo, del suo pensiero, proprio perché appunto è l'unico poi saggio teorico concluso dentro un libro, perché poi lui di saggi teorici ne ha scritti tantissimi. Il rapporto con Reggio Emilia, che tu comunque lo spieghi, ce lo vuoi un po' raccontare? Sì, insomma, lui frequenta l'Emilia Romagna tutta la vita, sua moglie è nata vicino Modena, in provincia di Reggio Emilia, però poi per tutta la vita, insomma, vivrà a Modena, e quindi Rodari seguirà anche per questo motivo, insomma, per l'unità, le sue prime cronache, seguirà le occupazioni delle reggiane, seguirà appunto gli scioperi di Modena, per cui sarà un cronista dell'unità che segue quello che accade lì. Lì scriverà il suo Cipollino, e quindi, insomma, questa relazione sarà una relazione proprio con la regione, che rappresenta poi anche per Rodari, insomma, anche una regione dove Partito Comunista in qualche modo comunque governa le città, e quindi che gli assomiglia molto. Poi conoscerà Loris Malaguzzi, proprio perché è interessato alle questioni educative. Loris Malaguzzi lo inviterà a fare un corso di formazione a insegnanti e operatori della scuola nel 1962. Questa era una cosa che si faceva allora, no? I comuni democratici invitavano gli intellettuali a dialogare con il proprio personale, insomma, delle scuole. Lo faceva a Bologna, lo faceva a Modena, lo faceva a Reggio Emilia, e però appunto a Reggio Emilia Rodari trova particolare stimolo proprio nella prospettiva della scuola dell'infanzia, che, come sappiamo, insomma, lì era particolarmente sviluppata, con il lavoro delle insegnanti che lavoravano già sulla questione dell'arte e della creatività in modo molto specifico, per cui lui lì si riconosce, e in qualche modo in questo dialogo con le maestre di Reggio Emilia lui mette a punto una serie di questioni che fino a quel momento aveva soltanto in testa come teoriche, ma che lì vede realizzate nella pratica, e questo è molto importante. Veniamo al titolo. Tu hai titolato un libro d'oro e d'argento intorno alla grammatica della fantasia. Ricordiamo che sono passati 50 anni più uno da quando uscì nel 1973. È un libro d'oro e d'argento questa grammatica della fantasia, cioè eccezionale, straordinario, unico. Sì, beh, unico, eccezionale, straordinario, unico e bellissimo. E d'oro e d'argento per Rodari era il libro di Lev Vygotsky sulla creatività infantile, e appunto io ho ripreso questa sua definizione, che comunque era una frase che a lui piaceva molto, appunto lo dice anche di Apollonia, che faceva le marmellate, appunto, che aveva le mani d'oro e d'argento, ed è un omaggio quindi a Gianni Rodari, che è tutto uno scrittore d'oro e d'argento, diciamocelo. Hai citato Gorky, ma ce ne sarebbero molti altri da citare nel tuo libro, sono presenti, da quelli che hanno influenzato poi Rodari, tipo Gramsci per esempio, ma anche tutta una serie di maestri e maestre con cui si è confrontato nel movimento di cooperazione democratica. Se vogliamo fare anche un accenno a questo suo inserimento in un contesto un po' più generale. Come spesso accade a molti intellettuali che si occupano di scuola la vedeva dal di fuori, avendo fatto il maestro per pochissimo tempo. Poi, grazie appunto alla frequentazione dei maestri del movimento di cooperazione educativa, penso soprattutto a Bruno Sari e a Mario Lodi, lui ha potuto entrare dentro le classi, penso anche a Maria Luisa Bigiaretti, che l'ha invitato nella sua scuola a Roma, e lavorare con i ragazzi in classe. Questa cosa è stata determinante, perché ha capito che, diciamo, la cosa più importante su cui intervenire era come si lavorava dentro le classi, cioè come si lavora sulla creatività, sulla letteratura, sulla scrittura, e anche su proprio la comunità che è rappresentata dalla classe. Compito. Per domani scriverete 10 nomi comuni, 10 nomi propri, 10 nomi collettivi, 10 nomi astratti, 10 nomi concreti, 10 nomi primitivi, 10 nomi derivati, 10 diminutivi, 10 accrescitivi, 10 dispregiativi, 10 nomi composti, 10 nomi maschili, 10 nomi femminili, 10 indipendenti, 10 promiscui, 10 nomi difettivi, 10 nomi indeclinabili, 10 sovrabbondanti, 10 arcaismi, 10 neologismi, 10 barbarismi, 10 cataclismi. Abbiamo parole per vendere, parole per comprare, parole per fare parole. Andiamo a cercare insieme parole per pensare. Andiamo a cercare insieme le parole per pensare. abbiamo parole per fingere, parole per ferire, parole per fare solletico. Parole per amare, abbiamo parole per piangere, parole per tacere, parole per fare rumore. Andiamo a cercare insieme le parole per parlare. Andiamo a cercare insieme. Parlare. Continuiamo in qualche modo a parlare di Gianni Rodari, perché nel 1978 il primo presidente di questo festival, il primo della letteratura ragazzi di 100, fu proprio lo stesso Gianni Rodari, grande narratore di Omegne. La trasmissione parla di questo festival perché non a caso proprio comincia oggi con una serie di iniziative che prevede incontri con importanti e famosi ospiti, firma coppie con autori di libri, spettacoli, laboratori per ragazzi, proiezioni di film, mostre, convegni, letture per bambini, nonché tra gli altri anche laboratori sull'orme di grandi figure sempre rodariane, Bruno Munari. Tutto questo dunque al Festival del Primo per Ragazzi di 100, che dal 29 aprile fino al 4 maggio si terrà nella cittadina ferrarese. Per saperne di più, il nostro William Piana ha interpellato Elena Melloni Montalto, curatrice della manifestazione. Sarà fino al 4 maggio, premia chi scrive e vince chi legge, il premio letteratura ragazzi di 100. Il 2 e il 3 maggio con gli incontri con tutti gli autori finalisti, quindi avremo Federico Apele, Teresa Scala, Guido Sgardoli, Esperanza Acuzzimana, e ognuno di loro presenterà i loro libri finalisti, quindi Chi vuol diventare detective, La banda del pianerottolo, Siberia. Inaugureremo poi una mostra di illustratori, perché all'interno del premio di letteratura abbiamo appena concluso qualche giorno fa il concorso per illustratori, faremo una mostra con le tavole originali proprio nella sede della Fondazione dal 2 maggio al 30 maggio, visitabile tutti i giorni. Nella prima giornata avremo anche una visita guidata, quindi alle scuole e ai ragazzi che vogliono venire, anche in questo caso completamente gratuita. Avremo laboratori con il metodo Munari tutto il 2, sia il 2 mattina che il 2 pomeriggio, dal titolo Il gusto di sfogliare, dal foglio al libro, e sarà proprio un laboratorio dove bambini con la carta, i colori e le penne costruiranno un loro libro. Ci saranno sempre nella giornata di giovedì delle letture nella piazza, nel centro storico di Cento, dal titolo A spasso con mostri, streghe, gatti e draghi, fatto sulla falsa riga delle illustrazioni di Axel Schaeffer, che è il papà del Gruffalo, è un personaggio famoso tra i bambini. E poi arriviamo alla giornata, diciamo, un po' più conclusiva, che sarà quella del 4 maggio. Il sabato mattina alle 11 avremo la cerimonia di premiazione, dove sfileranno e conosceremo finalmente la classifica finale dei vincitori. Alla mattina, molto presto, alle 9, avremo Guercino Kids, perché Cento è la città natale di Guercino, quindi appena riaperto la nostra pinacoteca, e faremo un tour visita guidata per bambini a vedere, a visionare i quadri di Guercino. E nel pomeriggio, in 4 giornate del festival, nel centro storico i commercianti hanno organizzato una caccia alle parole, quindi una visita dei negozi nelle vetrine, ci sarà un regolamento, caccia alle parole, e nel pomeriggio alle 17 l'estrazione dei premi. E le sedi della kermesse? Allora, le sedi sono tutte a 100. Sono varie sedi, perché saremo nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio, ma ci muoviamo di 50 metri in 50 metri, nel salone di rappresentanza Credem, un bellissimo salone del 600, saremo al Cinema Teatro Don Zucchini, dove venerdì sera proietteremo un film di animazione d'autore, La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti, che è stato nostro presidente di giuria. e poi avremo la sala Zarri, che è la sala del palazzo del governatore dell'amministrazione, insomma del comune, e in alcune scuole, perché avendo tanti eventi nello stesso momento abbiamo dovuto chiedere anche asilo in qualche aula magna di qualche scuola, quindi comunque si gira tutto tranquillamente a piedi. Sì, ho visto che è anche eterogeneo come espressione artistica e contenuti, dalle esposizioni, incontri, dibattiti, dalla letteratura, poi si evolvono diverse frange di motivi dialogici e di ispirazione indirizzato a una letteratura per ragazzi. A tale proposito, 45 anni dalla prima edizione, cos'è cambiato come rapporto tra ragazzi, letteratura, e come è cambiato? Allora, 45 anni sono una storia lunghissima, anche perché ininterrotta non ci ha fermato il terremoto, non ci ha fermato il Covid, e abbiamo avuto Gianni Rodari come primo e unico presidente di giuria nella prima edizione del 78, quindi abbiamo iniziato subito con un livello altissimo e gli organizzatori hanno cercato di mantenere questo livello altissimo. La letteratura per ragazzi è in piena evoluzione ed è una delle cose più dinamiche, dico sempre, che ci si possa immaginare. Infatti a volte si pensa alla letteratura per ragazzi ancora quella degli anni 70, degli anni 80. No, ogni mese esce letteratura di grandissima qualità con grandissimi autori. Noi siamo un premio internazionale, quindi da noi passano anche tantissimi autori internazionali tradotti in italiano. La famosissima Rowling con Harry Potter vinse nel 98 a 100, unico premio italiano ad averla premiata, con la prima edizione della saga del maghetto Harry Potter e la pietra filosofale. Cos'è cambiato? È cambiata la giuria popolare, perché noi abbiamo una giuria tecnica prima che seleziona tra tutti i libri che passano, poi ne seleziona tre per la scuola primaria, tre per la scuola secondaria, e a quel punto entra in gioco l'esercito di bambini che legge i libri. Sono 14.000 quest'anno da Palermo a Bolzano, con anche le scuole italiane all'estero. Noi abbiamo scuole da Parigi, Berlino, l'Istria, che è uno zoccolo duro che ci segue da sempre, e poi votano loro la classifica finale. Quindi noi in realtà fino a quel 4 maggio non sapremo chi vince, perché stiamo raccogliendo, hanno iniziato ad arrivare i voti adesso attraverso il nostro portale, e sono 14.000. Quindi quello che è cambiato è la dimensione che ha assunto il premio su scala nazionale e anche internazionale. Occhiali tondi, fulmine in fronte, bacchette contro questi mangia morte, anche se scorre sangue serpe verde, oggi il cappello ha scelto un'altra sorte. C'è silente, è settembre, 9:15, senti il treno parte, perché al proprio destino non si sfugge, quello che non uccide rende forte come Harry Potter. E ci ritroviamo ancora ogni anno nuovo, sempre dentro questa stessa scuola, magia, incantesimi, mirtilla che si sente sola, Tom che ritorna ancora ma con un nome che nessuno dice per paura, una scopa in alto vola, segue un boccino d'oro che sparisce in alta quota, Hermione che sa tutto fino a che non si innamora, ma Ron non si dichiara, l'amore è un incantesimo che nei libri non si impara, tra le mie necessità c'è uno specchio con mamma e papà, mi sembra siano ancora qua. Occhiali tondi, fulmine in fronte, bacchette contro questi mangia morte, anche se scorre sangue serpe verde, oggi il cappello ha scelto un'altra sorte. C'è silente, è settembre, 9:15, senti il treno parte, perché al proprio destino non si sfugge, quello che non uccide rende forti come Harry Potter. E ci ritroviamo insieme, lontani dai babbani, in bilico tra il male e il bene, pozioni magiche, patronus e le cioccorane, hanno le figurine, tra queste gelatine una mi sembra cerume, mentre il cielo si fa scuro, Severus mostra un lato che non è così severo, e Draco fa il gradasso, in fondo è solo un insicuro, anche se il sangue è puro, è la purezza dello spirito che fa un mago vero, tra queste difficoltà, il pensiero di mamma e papà, so già che mi proteggerà. Occhiali tondi, fulmine in fronte, raccolgo tutti i doni della morte, anche se scorre sangue serpe verde, oggi il cappello ha scelto un'altra sorte. C'è silente, è settembre, 9:15, senti il treno parte, perché al proprio destino non si sfugge, quello che non uccide rende forte come Harry Potter. Voglia d'estate, allora spostiamoci nella Notte Rosa e in particolare a Ravenna, dove prenderà il via il primo festival presentato da Cocorino Press, la nota casa editrice di fumetti. Quindi, dopo lo stacco musicale, Ilaria Bonacorsi Gardini di Cocorino Press Ravenna ci spiegherà un po' i contorni di questo festival. Partito da un autore locale, cioè da Davide Reviati. Io ero venuta a parlare con l'assessore alla cultura per una personale e l'assessore Sbaragli è stato molto gentile perché ha rilanciato immediatamente e mi ha detto: ma voi non fate un festival tipo internazionale a Ferrara? E io ho detto: no, ma sarebbe bellissimo. E devo dire che poi è stato lui veramente che ha trainato, con ovviamente il benestare del sindaco, che ha trainato la crescita, anzi la nascita e poi la crescita di questo festival. È la prima edizione. Se ci divertiamo, se verrà una cosa bella, spero di ripeterla, cioè che diventi un appuntamento come Internazionale a Ferrara. Diciamo che il mondo del fumetto è un mondo che attira, diciamo, trasversalmente tutte le età, ma soprattutto i giovani, e quindi era importante. E poi secondo me con Ravenna c'è un legame grande sul discorso delle immagini, dei mosaici, dei codici manoscritti. Il fumetto, diciamo che è una nuova, è la nona forma d'arte e a Ravenna stava benissimo. Ecco, come sarà caratterizzato il festival? Porterete anche autori famosi? Assolutamente, cioè intanto noi portiamo le tavole originali di Altan, e avere Altan non è cosa semplice, come lei sa, e è l'autore della Pimpa, ma anche di Ada e la giungla, e quindi di questo siamo molto fieri. Ma arriveranno a Ravenna autori come Gipi, che è in assoluto l'autore italiano più famoso, non solo, è tradotto in tutte le lingue. Porteremo Zuzu, Davide Reviati, Mara Cerri, che ha appena reso in fumetto L'amica geniale, e quindi il nostro tentativo è di far vedere come il fumetto si connetta alla letteratura, al cinema, all'arte, per dimostrare quanto sia trasversale questo linguaggio, quanto possa essere coinvolgente, perché unisce immagini e scrittura. È un festival nuovo che arriva nella 3 giorni della Notte Rosa. Che cosa vi aspettate dal pubblico di Ravenna e dintorni? Dunque, noi abbiamo volutamente concentrato gli eventi. Ci sarà una grande mostra con tavole originali di Zuzu, di Reviati, di Altan, di Gabos, di Filosa. Filosa è il massimo rappresentante dei manga in Italia. I manga sono un tipo di fumetto che raccoglie tantissimo il pubblico giovanile ed è molto importante, è un fenomeno in crescita esponenziale da un punto di vista editoriale. Ma abbiamo concentrato tutti gli eventi, cioè le presentazioni dei libri, verso il tardo pomeriggio, dalle 18 alle 19, fino a piccoli programmi post cena addirittura. E il clou della festa sarà la Nabì, cioè ci spostiamo al mare, e verrà Domenico Procacci, il produttore cinematografico di Fandango, che parlerà con Gipi di cinema, in realtà, perché Gianni non solo disegna i più bei fumetti che esistano secondo me in quest'epoca, ma è un regista e autore di film. E quindi, e poi ci sarà invece una live session di musica, perché molti dei nostri autori, Dottor Pira, Ratiger, Zuzu stessa, sono dei DJ, quindi faranno dei DJ set. Quindi diciamo l'evento clou sarà sabato sera al mare. Ci sarà un primo momento su cinema e fumetto e un secondo momento in cui proprio si balla. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare le ghiappe ghiare, con i pesci in mezzo all'onne, noi s'andiamo a divertì. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare con i pesci in mezzo all'onne.